Buonasera, sempre bello essere con voi. Condivido il pensiero del pastore. È una domenica speciale, la domenica è sempre speciale, però oggi poi è un po' più speciale perché stamattina abbiamo avuto questo incontro così bello. Ho avuto l'onore di poter essere con chi si battezzava nella vasca e avvertirne le emozioni, il senso, quello anche che è difficile poi comunicare, ma lo si avverte proprio a pelle, ma più che a pelle credo è lo spirito che comunica. E quindi è stata davvero una domenica ed è una domenica importante, una domenica dove Dio ha deciso in maniera specifica per quelle quattro persone di fare, come dire, di dare un colpo di coda alla rotta della loro vita, e la loro vita è oggi realmente una vera nuova vita che prende tutto un nuovo percorso. L'esempio, l'immagine che più si utilizza per descrivere la vita è un percorso. Si dice sempre che è fatta di alti e bassi, quindi salite e discese, che ci sono delle strade un po' sconnesse, ma ci sono anche poi delle superstrade ad alta velocità. Queste sono un po' le immagini che si utilizzano quando si vuole parlare della vita. E tutti quanti noi abbiamo avuto il nostro percorso di vita, fino a che a un certo punto abbiamo incontrato Gesù. Lì alcune delle vie percorse si sono rivelate completamente sbagliate, altre sono risultate proprio, hanno acquisito significato, perché ci rendiamo conto, ci siamo resi conto che ci hanno portato ad incontrare Gesù, e da quel momento in poi, da quell'incontro in poi, un nuovo percorso, o meglio, la Bibbia dice, una gara. Chi c'era domenica scorsa? Tutti, anche perché la predicazione era uguale mattina e sera. Il pastore a un certo punto, il pastore Mirko, a un certo punto ha letto dei versi in 1 Corinzi 9 e faceva proprio riferimento alla gara, all'atleta cristiano e quindi a questa gara che ci è dato di correre. E ve lo dico, oggi in buona parte penso che farò una ricapitolazione di quello che ci siamo detti domenica scorsa. Più avanti vi spiego che cosa sta succedendo, perché Dio mi ha messo questo in cuore. Da quel momento in poi, da quei versi in poi, versi in 1 Corinzi 9, che dicono che la vita è del cristiano è come una gara, tanti corrono in quello stadio, solo uno riceve il premio, la corona, una corona incorruttibile, e poi fa anche un esempio molto pratico dicendo come l'atleta, quello normale, si allena e si dà così tanto per aggiungere poi dei premi che di gloria, ma che finisce lì in quell'istante. Noi ci adoperiamo a correre e non in modo incerto, a combattere al pugilato, ma non come a battere l'aria. Che cosa stava dicendo l'apostolo Paolo? È il messaggio di questa sera. Due settimane fa, quando mi sono messo a pregare per questa domenica, Dio mi ha proprio dato chiaramente: Luigi, parla della gara. Parla della gara. E poi domenica scorsa il pastore ha predicato, a un certo punto della sua predicazione quasi terminava con questa immagine. Ha parlato di distrazione, riusciamo a recuperarla quella predicazione? Ha parlato di che cosa siamo pieni, c'erano dei palloncini qui. E ho detto: Signore, ma perché io devo ricominciare da là? Insomma, le cose ce le siamo già dette, credo che come chiesa l'abbiamo ricevuto il messaggio. Però ho voluto mantenere fede a quello che Dio aveva iniziato in me due settimane fa. E così ho detto, ok, va bene, continuiamo, Signore, dove ci vuoi portare? E lui ha ideato, pensato, credo, un percorso. Mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo. Penso che sia un percorso per la Chiesa. Un percorso, o meglio, è una tappa del percorso che ci è dato di poter compiere. Ad un certo punto, in Ebrei, si legge questo. È un'altra delle immagini, sempre uno dei passaggi biblici che riprende l'immagine della gara, della corsa. Ebrei 12, 1-3. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Questo è un altro dei passaggi, ci sono tanti altri passaggi nella Bibbia, nelle epistole fondamentalmente, che riprendono questo esempio della gara. Se è ripetuto così tante volte perché crediamo fermamente che la parola non dà cose a caso, ma è l'immagine, è lo stile, vedremo oggi, è il punto interrogativo che ci porremo anche che gara stiamo correndo. Questi versi iniziano in una maniera incoraggiante, dicendoci che non siamo gli unici che hanno partecipato, che stanno partecipando a questa gara. C'è una grande schiera di testimoni. Se si fa un passo indietro, capitolo 11, Ebrei, c'è una lista di grandi persone della Bibbia che conosciamo benissimo, che ricoprono millenni di storia. Ognuno di loro ha percorso una gara, la gara che gli era proposta, una gara di fede. Perché in Ebrei 11 si parla della fede. E quel capitolo termina dicendo che tutti questi hanno corso quella gara in fede, non raggiungendo però effettivamente la promessa, il traguardo. Perché? Perché non fossero gli unici ad arrivare. Dio, nella sua grazia, nel suo amore, ci ha pensati, insieme a quelle grandi persone, di arrivare un giorno a godere appieno della bellezza dell'incontro faccia a faccia con Dio e di tutta la gloria che si manifesterà e di tutta la bellezza, di tutta la sua maestà che ci sarà rivelata faccia a faccia. E quindi oggi noi corriamo una gara che in buona parte altri hanno già corso, con delle sfumature differenti, ma con un traguardo che è comune. Però permettetemi di dire anche questo, noi corriamo una gara un po' più semplice rispetto a loro. Pensate a Abramo. Promessa grandissima, traguardo wow, ha visto molto poco, ci ha creduto con tutto se stesso, la sua fede non ha mai vacillato. Noi, perlomeno rispetto ad Abramo, abbiamo una promessa, ed è una promessa di quelle grandi che si è realizzata. Gesù, il Messia, venuto sulla terra per cambiare, come cantiamo, la storia dell'umanità. Tutto è cambiato in quel momento e nello specifico il giorno in cui io e te abbiamo scelto proprio di incontrare Gesù. Abbiamo scelto di seguirlo, abbiamo scelto di voler essere suoi discepoli. Lì per noi la storia è cambiata. Noi rispetto a quei grandi testimoni abbiamo una marcia in più. E se hanno corso loro quella gara la possiamo correre anche noi, portandola a termine e con una grande fede. Questi versi, i versi di Ebrei, mettono anche in risalto un'altra cosa, che c'è la possibilità che ci stanchiamo. Non lo mette come, meglio che non lo diciamo, così. La parola è chiara, ci dice che possiamo stancarci. E sapete perché ci possiamo stancare? La causa è sempre la stessa, ed è quella che abbiamo sentito domenica scorsa, è la distrazione. Ebrei dice sempre che il peccato e i pesi ci avvolgono come facilmente. Non è che dice che ogni tanto potresti incontrare qualcosa che potrebbe, no, facilmente il peccato e i pesi ci avvolgono. Per evitare che questi ci distraggano o che ci stanchino, teniamo lo sguardo su Gesù, per non distrarci, come abbiamo sentito domenica scorsa. Colui che crea la fede, colui che la rende perfetta. Io non ho una fede forte, non riesco, a volte vacillo. Che fede è? Perché se è la fede che promuove Gesù, colui che crea la fede, è una fede perfetta. Ma vedremo qual è poi anche l'impegno che la Bibbia ci richiede per poter correre quella gara con tutta sicurezza. Perché la fede è il punto fondamentale? Perché è scritto in 1 Pietro 1,5 che noi veniamo custoditi nella fede. Se si va a leggere per bene quella parte della Bibbia, si capisce che la protezione di cui si parla non è quella protezione, come dire, sono in macchina, Dio mi protegge quando sono in macchina, quando sto camminando, quando sono al lavoro, ci protegge in questo momento. Ma in 1 Pietro si parla di una fede che ci custodisce da che cosa? Dalla perdita della salvezza. La nostra fede, noi veniamo custoditi nella nostra fede da quella che è la promessa dell'eternità che ci è stata fatta. Quando si diceva in 1 Corinzi 9, tanti corrono la gara, ma uno riceve il premio. Ora, non è che quell'uno effettivamente è uno numerico, ma questo fa comprendere che ci sono più persone che gareggiano, ma che non tutti arrivano al traguardo. Gesù, speranza per noi, vuole che tutti quanti possano arrivare al traguardo. Io ci tengo a dire questa cosa: Dio non ha reso la nostra vita di credenti, di figli di Dio, più complicata per poterci rendere le cose difficili. Perché a volte sembra un po' questo: ma è difficile credere in Gesù, è difficile essere sempre coerenti col mio essere figli di Dio. Lo so, la Bibbia lo sa anche, Gesù lo sa anche. Ma ci chiede un impegno, ed è verso quell'impegno che andremo. Quando 2 settimane fa Dio mi ha messo questo messaggio nel cuore, sapete come è iniziato tutto? Con un'immagine alquanto curiosa. Ho trovato un video che è molto simile all'immagine che ho ricevuto da parte di Dio. Vi faccio vedere questo breve video. Stavo pregando e ho visto un'immagine nella mente di un criceto che è nella ruota. Ho detto, beh, signore, qua che cosa sta succedendo? Io sto pregando per domenica, ma mi vengono i criceti, che poi non è che sono animali che io amo, insomma. Non è... Quel criceto, questo video è lunghissimo, a un certo punto il criceto che stava mangiando sale pure lui nella ruota e si mettono in 2 a correre e gareggiano davvero. Che differenza c'è fra una gara come si deve e la gara che stava facendo il criceto nella ruota? Entrambi corrono, entrambi si impegnano, entrambi si stancano, entrambi sono determinati. Però capiamo che il criceto in quella ruota corre una gara, una corsa, senza finalità. Ti sei mai sentito nel correre la gara che Dio ti ha proposto davanti, di correre a vuoto? Di non sapere dove stai andando. Perché succede, e sapete quando succede? Proprio quando arrivano le distrazioni, proprio quando perdiamo la chiarezza dell'obiettivo che ci è posto dinanzi, proprio quando la nostra fede diventa più una fede umana, una fede legata a quello che abbiamo intorno, a quello che viviamo insieme come Chiesa, e non è quella fede perfetta promossa da Gesù dentro di noi. Lì incominciamo a correre una gara, che è una gara fatta probabilmente di tanti impegni, di tanti compiti in Chiesa, oppure una gara fatta di io e Gesù da soli, sempre nella stanzetta. Tante parole, tanti sentimenti. Sono corse che portano davvero, hanno come dire, che ci chiedono tanta fatica, che ci richiedono tanto impegno, che possono essere confuse con la vera gara. Ma noi non siamo stati chiamati a correre delle pseudo gare, delle gare false. Noi siamo stati chiamati a correre quell'unica gara dove l'unico giudice imparziale ma pieno di grazia è Gesù. Ed è Lui che ci sta aspettando per donarci il premio, quella corona incorruttibile. C'è un passaggio nella Bibbia che si è rivelato importante per me per poter capire oggi come noi praticamente possiamo fare autovalutazione della gara che stiamo correndo. Perché ho detto, ok, Signore Gesù, io mi sono sentito più volte di correre delle gare a vuoto, ma come posso capire oggi se la gara che sto correndo è la gara che tu mi hai posto dinanzi? Non è che per caso io mi sono perso mentre correvo, ho visto questa ruota, mi sono infilato in questa ruota e sto correndo, ma non arrivo da nessuna parte. E la Bibbia, come sempre, si rivela chiara, precisa, dettagliata. Andiamo nell'epistola di 2 Pietro, capitolo 1, i versi dal 5 all'11. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Abbiamo letto, c'era questo avverbio, il peccato e i pesi ci avvolgono facilmente. Qui c'è un altro avverbio importantissimo, bellissimo. Vi sarà concesso ampiamente di entrare. Sono due opposti. Se da una parte il peccato facilmente vorrebbe portarci giù, vorrebbe allontanarci, distrarci da raggiungere il traguardo, dall'altra parte la grazia di Dio nei nostri confronti vuole permetterci di avere un ingresso a porte spalancate. Vi piace questa cosa? Vi piace di poter arrivare al giorno in cui incontrerete, incontrerò Gesù, con un portone aperto davanti, magari un pollice su o una pacca, hai fatto la gara giusta, hai corso la gara giusta e ora ti è concesso questo ingresso per grazia. Noi non possiamo meritare, attenzione, la gara noi la vinciamo solo e soltanto per fede in Gesù, ma ci è richiesto di avere un'attitudine, un comportamento, una tempra giusta da corridori che vogliono raggiungere il traguardo. E questa epistola in Pietro, in 2 Pietro, mette chiaramente in risalto questa cosa, cioè c'è questa parte che sempre lascia un po', rendete salda, sicura la vostra vocazione ed elezione. Cioè, abbiamo detto che la salvezza è per grazia, ma io ora mi devo impegnare a far sì che la mia vocazione, la mia elezione si renda forte, si renda salda, sicura. Che sta succedendo? Qua qualcuno ci sta prendendo in giro? Assolutamente no, la parola non si contraddice. Sta dicendo semplicemente che quel traguardo ci è permesso di poterlo raggiungere per grazia, ma dal punto in cui sono partito, la linea di start, alla linea di finish del traguardo, io devo correre quella gara. Non c'è qualcuno che mi prende in braccio e mi dice vieni, ti porto io. E mi è data di correre una gara che promuove in me la statura, l'immagine, l'amore di Cristo. E tutto questo deve essere pratico, molto, molto reale. Ecco perché Pietro fa questa escalation, questa progressione. Se voi pensate ad una gara che deve essere come si deve, ci deve essere una progressione e un andare avanti. Se non c'è progressione, incominciamo a metterci già un punto interrogativo. Che gara sto correndo? È la gara del criceto, che non dà progressione. E Pietro mette in risalto una progressione chiarissima, molto molto semplice. Alla fede aggiungi la virtù la conoscenza la pietà, e così continua. Se voi vedete, sono tutte cose molto molto pratiche, tutte cose che riguardano il nostro quotidiano, e che ci permettono di non distrarre il nostro sguardo da Gesù. C'è scritto infatti che chi non abbonda in queste cose, com'è? È cieco o miope. Il cieco non ci vede proprio, il miope ci vede da qui a lì. E non solo non riesce a vedere quello che gli sta davanti, il traguardo, e si perde in alcuni giri, si dimentica, guardandosi dietro, anche da dove veniva. Stamattina nei battesimi, con i battesimi, e poi è sempre per noi anche un modo per porci un attimo, ecco, un reminder, un ricordo di quello che è stato. Noi da dove siamo venuti? È importante che ce lo ricordiamo, affinché, non per essere malinconici o per dire grazie Gesù che mi hai cambiato, certamente, ma proprio anche per renderci conto che se per caso dovessimo trovarci a ripercorrere un percorso già fatto, significa che probabilmente abbiamo sbagliato strada. O qualcosa non sta più funzionando, perché noi siamo chiamati a guardare al traguardo che parla di eternità, Il miope non guarda avanti, non riesce neanche a guardare dietro, guarda solo avanti, ai suoi piedi, qui, e corre lì, e si affatica lì, al presente. Ma producendo che cosa poi? Probabilmente un'opera umana, buonissima. Io un giorno vorrò arrivare davanti a Gesù e dire queste parole. Sono le parole che l'apostolo Paolo a un certo punto scrive a Timoteo. 2 Timoteo 4, 6, 8. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione. E il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento. Ho finito la corsa. Ho conservato la fede. Oramai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. L'apostolo Paolo giunge a questa certezza a un certo punto, che il traguardo, l'obiettivo che era a lui prefisso, era stato raggiunto. Ed era pronto, sapeva che la sua missione qui su questa terra stava per finire. E dice: io ho conservato la fede. Quella fede che ci serve per poter guardare avanti e per poter restare fedeli a Gesù e fedeli al traguardo, all'obiettivo. Quella fede dalla quale poi si promuove la virtù, che promuove la conoscenza e così andando avanti, quella progressione pratica, concreta, che ci permette di poter fare autovalutazione, perché se quella progressione non è in attivo in noi, significa che stiamo perdendo qualcosa, che stiamo diventando probabilmente miopi. L'apostolo Paolo dice: io ho conservato la fede. E sapete di che fede sta parlando? Nelle epistole paoline, quando si usava il termine fede, quel termine non aveva ancora quel senso lato, quel senso generale che noi diamo alla parola fede. Vi faccio un esempio molto pratico per capire. Di che fede sei? Evangelico. No, non è di quel tipo di fede che stava parlando l'apostolo Paolo. Né tantomeno stava dicendo che aveva corso la gara rispettando le regole, rispettando i comandamenti o... Qual è una conseguenza? Lui sta dicendo: io ho mantenuto la fede, quella fede che parla fortemente di fiducia in Gesù, nella promessa che Gesù gli aveva fatto di raggiungere il traguardo eterno, nella promessa che Gesù gli faceva probabilmente giorno dopo giorno, momento dopo momento, che stava correndo la gara giusta. E la gara di Paolo è stata una gara di sofferenza, di lotta, di disperazione, credo, ma di tanta vittoria. E di una certezza interiore che stava correndo la gara che lo avrebbe portato a ricevere, come dice lui, mi manca solo ora, la corona di giustizia. Paolo ha serbato la fede, l'ha conservata affinché quella fede non fosse corrotta, non perdesse il suo potenziale trasformatore, non perdesse la sua tenacia, la sua efficacia, una fede che non doveva vacillare. E sapete come ha fatto? Perché Paolo era un supereroe? Non credo. Paolo semplicemente non ha mai dubitato della fiducia che aveva in Gesù. Quando io dubito, incomincio a dire ma, forse, non ho capito bene. No, le cose non stanno andando proprio come io avevo deciso. Lì non sto più avendo fiducia in Gesù. L'apostolo Paolo non ha fatto questa domanda a Gesù, dicendo: ma che sta succedendo? E qua mi stanno mandando in carcere, e non una volta, e mi faranno anche, mi portano a morte, e poi il naufragio, e poi la gente che non mi accetta, e... quasi passato da una persona che aveva un certo ruolo sociale a un reietto nella società. Lui non ha mai messo davanti a Dio in conto tutto questo, come a dire: ehi, ma qua che cosa è successo? Lui ha detto: questa è la gara che mi è data e io la porto a termine con tutto me stesso. L'impegno. Questa è la parola chiave di questa sera. Se domenica scorsa abbiamo detto no alla distrazione, in questa domenica vogliamo dire sì all'impegno di poter rendere sicura la nostra vocazione, la nostra elezione. Io e te siamo stati eletti, scelti, per passare l'eternità con Dio. Io e te siamo stati vocati, chiamati ad avere un percorso di vita che ci prepari a quell'eternità e che sin da oggi rifletta tutta la maestà e la bellezza e l'onore, e aggiungi cosa vuoi, che riguarda Dio e il posto che Lui ha preparato per me e per te. Il nostro sì è in questi termini. È un sì che si fa di coraggio, che non è certezza, attenzione. Cioè, nel senso, il coraggio non è che dici io faccio le cose solo se le so. E lì è facile essere coraggiosi. Il coraggio è dire io faccio, io mi butto, io inizio. Non perché mi fido di me stesso, delle mie capacità o di quello che so fare o già fatto, ma mi fido di Gesù che mi sta ponendo davanti questa gara da correre. E la gara può essere ministeriale, partiamo da una gara, e come dire, da esempio, il servizio, quello a cui sei stato chiamato per poter far sì che il regno di Dio venga. E a questa gara poi si aggiunge le gare, quelle sulla nostra vita. Hai bisogno di crescere nella pazienza? Come me? Ok, c'è dato di poter correre questa gara. Hai bisogno di crescere nell'autocontrollo? Come me? Ok, c'è dato di poter correre questa gara. Quella gara di cui parla la Bibbia è una gara che noi non potremmo mai correre da vincitori. La vittoria è solo ed esclusivamente in Gesù. Noi riceviamo questa promessa sulla nostra vita, ma al tempo stesso ci è dato di poter correre una gara che si fa di praticità. Ed è quella progressione che vogliamo vedere, che veniva proprio presentata dall'Apostolo Pietro. È un percorso. Parte dalla fede, finisce all'amore. E al centro tante cose molto molto pratiche. Noi fondamentalmente abbiamo bisogno di conoscere ancora Gesù. Io credo di conoscere troppo poco ancora di Gesù. Ed è per questo che mi perdo. Ed è per questo che a volte mi vado a fare certi giri su queste ruote da criceto. Se io cresco nella conoscenza di Gesù, se io cresco nella virtù, una propensione alla ricerca del bene, questa è la virtù. Se io cresco nell'amore fraterno, se io cresco nella conoscenza, se io cresco nell'amore, allora io lì sto rendendo forte la vocazione che Gesù ha nei miei confronti. Diversamente, quella vocazione potrebbe incominciare a vacillare. Potrei perdermi e potrei autoingannarmi che sto correndo la gara che mi porta al traguardo, e in realtà forse un giorno poi mi renderò conto che quella gara non mi ha portato da nessuna parte. Con Gesù ci si può sempre rimettere in gara. Notizia, non so se è bello o brutta, nella gara ci dobbiamo essere necessariamente. Il giorno in cui abbiamo scelto per Gesù abbiamo incominciato a gareggiare. Non possiamo uscire da quella gara, però noi non siamo chiamati solo a partecipare a questa gara, noi siamo chiamati a vincere questa gara. E questa è la promessa che Gesù ci fa. E per vincere questa gara non possiamo fare altro se non fidarci di Gesù. E quando io mi fido di Gesù, che incomincio a un certo punto a dire ok, allora io voglio impegnarmi, perché fidandomi di te io voglio essere come te, perché fidandomi di te io voglio parlare come tu parlavi, fidandomi di te io voglio amare come tu amavi, fidandomi di te io voglio pensare, conoscere te, il Padre, la Chiesa come tu avevi conoscenza. Lì tutto diventa molto molto pratico, tutto molto concreto, tutto molto a misura mia e tua. Perché questo è l'impegno che ci è chiesto. Alla nostra salvezza, il dono di grazia, non possiamo metterci mano. Ma io e te, la Bibbia ci invita ad essere impegnati nella ricerca di queste cose. Perché facendo questo, riusciremo a dirci in autovalutazione, perché lo Spirito lo testimonierà dentro di noi: stai correndo la gara giusta, continua così. E io so di avere davanti una Chiesa che in questo momento, riprendendo il verso di Paolo a Timoteo, Paolo, scrivendo in greco, dice: questo è il kairos, cioè il momento opportuno per, dice sempre in greco, l'analisis, che non significa fare l'analisi, ma significa lo scioglimento. Paolo stava sciogliendo se stesso, era per lui il momento opportuno per sciogliersi da tutto quello che era stata la sua vita. Oggi per me e per te non credo sia il giorno per andare a Dio, però per noi è il kairos, il momento opportuno per scioglierci da tutto quello che non ci permette di poter essere liberi e di poter correre pienamente la gara che ci è proposta davanti. Oggi è il momento giusto, questo è il momento opportuno, Chiesa. Io credo che quello che ci sta davanti è molto di più di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, e non perché è una frase fatta, perché altrimenti io potrei dire a questo punto: ok Dio, abbiamo raggiunto il traguardo prefisso, portaci con te. Non credo che la Chiesa abbia terminato la sua opera, non credo che io e te abbiamo terminato la nostra opera. Ecco perché è oggi il momento per slacciarci, per sganciarci, per scioglierci da quello che ci tiene fermi, ancora legati, o che a volte ci mente, perché ci sono bugie anche che vengono nella nostra testa dicendoci che non possiamo correre la gara, bugia, perché la corriamo con Gesù e lui ha compiuto ogni cosa per noi, o che stiamo probabilmente correndo la gara che ci è stata data. Può anche essere, non dico che sia sbagliato, ma se hai qualche dubbio chiedi Spirito Santo, attesta in me che questa è la gara giusta, perché se non lo è, io voglio correre quella giusta. Allora diamoci da fare, impegniamoci a cambiare questa gara. Io voglio pregare per tutti quanti noi. Non farò un appello, non chiederò chi, perché credo che valga per tutti, e credo che Dio in maniera personale poi abbia messo chiaramente nel cuore di tutti quanti qual è il senso di quella ruota con un criceto dentro. Qualunque sia il significato che ha per te quella ruota, Dio non ti vede dentro quella ruota, ma Dio ti vede correre su una pista da atleta che sa correre, non in modo incerto, ma che sa correre, e sa correre perché si fida di Gesù. Posso pregare per voi? Vi dovete dire sì, perché se non volete io non posso pregare per voi. Posso pregare per voi? Signore Gesù, grazie, grazie perché tu hai compiuto per noi ogni cosa. Grazie perché in te le promesse hanno compimento. Grazie perché tu sei colui che ha preparato la via e noi vogliamo correre su quella via. E noi vogliamo correre in maniera certa. Noi vogliamo correre riconoscendo chi tu sei, guardando a te. E io ti prego per tutti quanti noi, rafforza sempre, costantemente, la decisione di non farci distrarre, di non lasciare alle circostanze, di non lasciare al peccato di poterci portare a una distrazione che ci dà il senso di una gara, ma che poi non è quella effettiva. Io prego invece per tutti quanti noi una certezza motivata, ispirata da te Spirito Santo in noi, che ci porta a credere, che ci porta a vivere, che ci porta ad impegnarci per quella gara che ci è posta davanti. Noi vogliamo correre quella gara per poterti incontrare e avere la certezza di aver corso la gara, ma anche oggi al presente poter dire grazie Dio per l'onore che mi dai di poter essere parte di una cosa così gloriosa e maestosa. Io prego per la tua Chiesa, prego che la tua Chiesa possa essere equipaggiata, che la tua Chiesa possa essere risvegliata, che la tua Chiesa possa avere una visione chiara, precisa di chi tu sei, di qual è il traguardo, che non ci sia una vista miope, che non ci sia cecità spirituale, ma che tutti quanti noi con sapienza possiamo renderci conto del punto dove ci troviamo e decidere di riprendere il ritmo, decidere di fare di nuovo, di prendere l'impegno, di farci forza, di farci coraggio, di non perderci d'animo, come diceva la tua parola, di non non sentirci stanchi, ma di acquisire nuove forze in te in vista della gioia che c'è posta davanti, proprio come hai fatto tu, Gesù. Vogliamo te prendere come esempio, vogliamo prenderti come forza, coraggio, vogliamo prendere te come colui che promuove la fede in noi. Io ti ringrazio per questo dono eccellente, io ti ringrazio per come equipaggi la tua chiesa ad essere una chiesa di fede, una chiesa che corre la gara, la corre insieme, la corre in unità, la corre in potenza. È per la tua potenza che siamo chiamati ad essere partecipi alla natura divina, e noi vogliamo vivere tutto questo sapendo che tu hai compiuto ogni cosa per noi, e vogliamo correre quella gara con la giusta attitudine, con le giuste azioni, con i giusti sentimenti, con la giusta identità, con il giusto voler dare onore e gloria solo ed esclusivamente a te. Abbassiamo noi, che tu possa essere innalzato, Signore Gesù. Grazie perché ci hai chiamati ad essere vincitori in te.